CEO, nona avanguardia. Ha! Siete rimasti al rap, sì. Non importa ciò che dà. Avete già la chiave in mano che vi porta giù nell'aldilà. Vorrei vedere cosa fate voi nell'aldilà. Che ha più pezzi su dischi che pezzi su Shazam. E quante lady sulla Mustang che poi metto in coma. Mi sembra Alberto sulla Vespa americana a Roma. E qua in Italia il secolo XXI bagno col mio flow. Le sue strade uno tsunami, non c'è più nessuno. Mi guardo intorno, non mi conosce nessuno. Bello sapere che dal fondo rapisci qualcuno. MP, lo squalo bianco, sette mari. Vieni giù da me, tu sei il re degli scamperiani. E qua un altro piano alla Mazinga Z. Sai parli di strada, ma di strada sei finita l'era. E la nona avanguardia chiude il 360. Sparo in faccia tante barre, quanti gli anni di galera. N.E.O. Point Break, camera morre. Ora il palco è casa mia per me. E tu che parli droga, sai che la prendi buona. E fai in cucina la cuoca a un metro di stagnola. E sai che predico sempre che chi per te prende la roba, che la mette nei testi ormai è solo una moda. Ma questa era musica una volta prima di sta merda. E questi rapper la prima perla, quella della botta. Adesso bene per le lady, strada del successo. È così facile buttare roba in ogni testo. È come un pentolone, la tua pozione è magica. Metti un altro flacone, così fa reazione acida. E la tua roba è rancida come alle case. Non per l'edilizia, che delizia deliziarvi su sta base. Aspetto che ribolle la vostra merda in tracce, per setacciarla bene con i testi che fate. Do you really think that this is a routine? Do you really think that the fact to put this bling bling? Run around, this is a routine. I guess how you try, this is a routine. Do you really think that this is a routine? Routine, the fact to act good this, love this. Run around, this is a routine. I guess how you try, this is a routine. Io, con le parole che ti apro, unica chiave tra le porte di metallo toccate dal male. Vi importa poco poi dell'autodistruzione, del tuo nome, della terra dove hai giurato madre guerra. E questo trick sa che è difficile. Butto 3G nel testo, passo la mia notte a ridere. Ciao, e sulla base sei un folletto. Come se poi non ti ristiri, male stanno è certo. Adesso metti in campo e la tua rima buona. Così fanno uso tutti di sta roba nuova. Credi di stare al top quando arriva la faloba, ma sei tu che giri intorno a tutta questa droga mezza vuota. Vorrei rianimarmi prima che arriva ok. E vorrei un po' attivarmi prima che arriva lei. Prima che scende male e poi mi cade tutto. Prima che nella mia traccia si scioglie tutto. E stanno tutti in fissa con la bella vita. Grido vaffanculo a tutti i testi scritti con la tua matita. E questa è una routine, mafia capitale. Sotto i tuoi occhi leggi mafia, spendi un capitale. Sprecate tempo a dire questa roba è commerciale. Più che commerciale, roba già allungata per poterla usare. Mi frega poco poi delle vostre cazzate. Già la tua incoerenza è pari ad un chilo di merci allungate. Do you really think that this is a routine? Do you really think that the fact to put this bling bling? Run around, this is a routine. I guess how you try, this is a routine. Do you really think that this is a routine? Routine, the fact to put this, put this. Run around, this is a routine. I guess how you try, this is a routine.